investire informati. Ricordiamo magari, Mauro, anche il numero verde per intervenire in diretta, 800 24 00 24, oppure scriveteci al 349 238 6666, riceviamo i vostri messaggi su attraverso l'SMS oppure su WhatsApp, scriveteci anche se avete bisogno di qualche risposta un pochino più articolata a 2didenari@radio24.it. Ci piacerebbe capire quale scelte vi attendono sul fronte del risparmio degli investimenti prima di concedervi, se riuscirete a farlo, bonus vacanza permettendo un po' di riposo nelle prossime settimane. E soprattutto anche voi avete lo stesso domandone in testa, lo stesso quesito dell'ascoltatore che ci ha mandato il suo messaggio poco fa. Non sapete come interpretare i segnali di mercato? Tra l'altro, Mauro, guarda, leggendo un po' in questi giorni, leggevo un'altra rappresentazione delle vicende appunto di queste settimane, e alcuni amici di un'agenzia scrivevano: negli Stati Uniti si allarga, perché è un po' là particolarmente il problema, si allarga la distanza fra l'alta finanza e l'economia reale, e cioè la distanza fra Wall Street e Main Street, massimi della storia del Nasdaq da una parte, massimo degli ultimi 7 anni del numero delle aziende che nella prima parte del 2020 hanno dichiarato fallimento, per poi non parlare del divario fra la salute dell'economia e la salute dei cittadini, perché i dati macroeconomici, che sono stati pesantissimi tra marzo, aprile e maggio, stanno adesso risalendo, ma i dati del contagio sono altrettanto enormi e sempre più alti di giorno in giorno. Cosa ci dobbiamo capire in tutto questo? Vuoi cominciare tu a fare l'interrogazione a Monica Defend? Ma più che un'interrogazione è proprio un affidamento da parte mia. Ci guidi, questo lo chiamiamo qualche volta decoupling, perché abbiamo imparato anche questo nuovo termine inglese, ma sostanzialmente potremmo anche dire strabismo. Uno strabismo che evidentemente ha delle solide ragioni, perché prosegue oramai da settimane. È così, dottoressa Defend? Sì, è così. Se guardiamo la espansione del bilancio della Banca Centrale americana e lo mettiamo in relazione all'andamento dell'indice di borsa americano, lo Standard & Poor's 500, c'è proprio una relazione 1-1. Quindi il mercato ha accolto con estremo entusiasmo quello che stanno facendo le banche centrali, perché se è vero in America è altrettanto vero sulle altre piazze. Cosa stanno facendo le banche centrali? Stanno fondamentalmente facendo due cose. Primo, stanno dando liquidità al sistema, e se vediamo come stanno andando i prestiti alle aziende, perché era quello, no, l'anello mancante, le banche centrali danno i quattrini alle banche, ma così non arrivano all'economia reale. Due settimane fa sono usciti i dati sugli aggregati monetari e si vede come finalmente questi soldi stiano arrivando alle imprese. Per esempio in Italia c'è stata una crescita dei prestiti alle aziende non finanziarie pari al 7%, quindi decisamente un buon numero. E questo è importante perché permette di gestire la solvibilità delle stesse, che è una delle cose che ci preoccupa. La seconda cosa che stanno facendo le banche centrali è tenere i tassi bassi, quindi calmierare i tassi di interesse, e questo agevola non solo le condizioni finanziarie ma anche il costo del debito pubblico, quindi permette ai governi di guadagnare tempo e spazio per poter poi fare delle manovre che dovrebbero servire a temperare l'effetto super negativo che di fatto c'è stato sulle economie mondiali, sull'economia italiana. Noi abbiamo una attesa di crescita del PIL almeno 12%, quindi è chiaro che è molto importante quello che stanno facendo le banche centrali, ma per avere un trend duraturo di crescita è necessario che ci sia anche un importante impegno fiscale, e il recovery fund potrebbe essere una delle soluzioni ai problemi. E forse è questo che vedono anche un po' i mercati, mi viene da pensare, cioè confidano in un intervento, siccome, no, voglio dire, Mario Draghi ci ha detto per anni: noi come banca centrale facciamo il possibile, ma voi come governi dovete avviare delle riforme, dovete ridurre il peso del fisco, l'ingombro del fisco, e non lo diceva solo a noi, lo diceva proprio in generale a tutti i paesi dell'Eurozona. E forse questa volta magari i mercati dicono, magari è la volta buona che queste riforme, questo alleggerimento dell'invadenza fiscale si fa. Ma lì c'è stato un cambio epocale da parte di Francia e Germania quando hanno concertato insieme quello che è la loro proposta al Consiglio europeo di addirittura stabilire i fondi a fondo perduto anziché a garantire i prestiti, e questo sicuramente il mercato l'ho apprezzato. Adesso però tirata la palla bisogna fare gol e aspettiamo luglio, forse settembre, come le due date importanti per davvero vedere un segnale tangibile su quel fronte. Ma sicuramente il rischio politico attaccato a questo evento è un pochino scemato proprio per la forte presa di posizione di Germania e Francia. Deborah. Allora, stavo riflettendo sulle cifre che ci ha ricordato Monica De Fende poco fa, quanto cadrà l'economia italiana quest'anno. Secondo le proiezioni del Fondo Monetario Internazionale, la caduta in termini di PIL sarà del 12,8% per l'economia globale, meno 4,9%. Sono dati annunciati da una decina di giorni. Lei teme che possano essere riaggiornati in termini peggiorativi, dottoressa De Fende, perché questo è un tema importante. Noi abbiamo e ragioniamo anche relativamente all'andamento dei mercati sui dati che abbiamo in questo momento, ma non abbiamo assolutamente la certezza che l'attività economico-produttiva a livello mondiale possa riprendere a ritmi, non dico sostenuti, ma decenti. Basti vedere quello che succede negli Stati Uniti, dove un giorno via l'altro gli stati preannunciano nuove difficoltà, nuove chiusure, nuovi lockdown appunto isolati, ma interruzione appunto delle attività produttive. Quindi mi chiedo anche da questo punto di vista, in prospettiva, che cosa vedete? Ma ovviamente i dati sull'andamento dei contagi sono un'informazione molto, molto importante. Di sicuro rispetto a marzo siamo un po' più pronti anche dal punto di vista medico a gestire la seconda ondata di contagi. Perché che il lockdown e quindi le chiusure delle attività dovrebbero essere selettive e non a tappeto, e questo dovrebbe consentire di stemperare l'effetto sul lato dell'offerta. Quello che noi stiamo guardando da sempre è che cosa succede al lato della domanda, perché se è vero che l'attività economica può riprendere da un lato, è necessario che i consumi riprendano. E per fare questo è necessario che l'occupazione diventi forte. Oggi escono i dati americani, sono americani, sì, giorno, esatto, sì, perché di fatto l'occupazione poi si trasferisce sui consumi. Gli americani fino adesso sono riusciti a tamponare con il trasferimento di sussidi ai disoccupati. In Europa, grazie agli ammortizzatori sociali, appunto questo effetto è stato un pochino temperato, però è chiaro che i dati della disoccupazione sono forse il dato macroeconomico più importante per capire quale sarà la dinamica di rientro, che sarà comunque lenta, perché guardando alle nostre previsioni per rientrare sui livelli pre-crisi, quindi di dicembre 2019, che già per l'Europa non erano fortissimi, dobbiamo aspettare la fine del 2022, quindi il rientro è un percorso lungo. 2022, ho compreso bene, dottoressa? Sì. Sì. No, ero un po' emergenti prima. Speravo di aver capito male. No. I paesi emergenti riescono a rientrare prima, in particolare l'Asia, ma per i paesi sviluppati il danno economico, come ci dicevamo, è stato grande, quindi dobbiamo aspettare il 2022. Cara Deborah, anche oggi i mercati, diciamo, sono, sì, impermeabili a qualsiasi informazione di tipo sanitario, che so, l'aumento dei contagi negli Stati Uniti, eccetera. Non è che io sia scontento se i mercati vanno bene, però certo è curioso che rimanga questa, diciamo, disarmonia, forse è un termine che potremmo così utilizzare per spiegare questo stato di cose. Esatto, l'abbiamo chiamata questa situazione in ogni modo, Mauro, ma sarebbe anche interessante, a proposito di confronti, cercare di capire un po' se situazioni del genere si sono mai verificate nel passato. Di crisi ne abbiamo avute tante, ne abbiamo avute anche di pesanti, quella dei mutui subprime, quella dello spread. Quindi Monica defende, se andiamo a guardare a quei momenti molto difficili vissuti per l'economia reale e di conseguenza anche per i mercati finanziari, i mercati in quei frangenti si sono comportati nello stesso modo, leggevano in maniera curiosa quello che era il sottostante economico, andavano per conto loro? Perché a me sembra di ricordare di no, che in realtà quando per esempio c'è stata la crisi successiva alla bancarotta di Lehman Brothers, i mercati sono caduti in maniera pesante, causando poi anche una crisi dell'economia reale altrettanto imponente. Sì, è esattamente così. Anche nel 2014 abbiamo avuto una recessione dei profitti aziendali a cui non ha fatto seguito una recessione economica e i mercati comunque hanno corretto in maniera sostanziale. C'è però due grosse differenze. La prima è che in questa occasione le banche centrali sono state molto più veloci rispetto al passato, magari forti dell'esperienza post-Lehman, con interventi repentini ma anche di qualità e di quantità. La seconda cosa è che finalmente siamo riusciti a vedere quel connubio, quella collaborazione tra politica monetaria e politica fiscale che non avevamo visto in passato, perché se guardiamo quello che è successo in America piuttosto che in Cina, piuttosto che in Inghilterra e forse in maniera un pochino più lenta, ma anche in Europa, finalmente c'è questa collaborazione tra politica monetaria e politica fiscale che dovrebbe andare a beneficio dei mercati finanziari sicuramente, ma anche della economia reale. Questo è un'importante differenza rispetto al passato, che ci fa essere cauti, ma un pochino a dare una lettura più positiva rispetto al passato. Questo non significa che non abbiamo preoccupazioni per quanto riguarda per esempio i tassi di default delle aziende. Questo rimane uno dei rischi che abbiamo sul nostro muro delle preoccupazioni. Sai Deborah, abbiamo un'ascoltatrice anche in linea che pone una domanda molto così, da quello che capisco dagli appunti che ci mandano dal centralino, molto essenziale mi verrebbe da dire. Licia, buongiorno Licia. Buongiorno, buongiorno. Sono una pensionata, ho 73 anni, sì? E ho un po' di risparmi sul conto corrente, ma mi spavento perché continuano a dire ci sarà la tassa, ti porta. Allora volevo sapere se questo gruppetto è giusto, se prendo, visto che c'è dei bot o qualcosa così, titoli di Stato, insomma, non necessariamente titoli di Stato in linea generale. Allora noi naturalmente, come sempre diciamo, grazie Alicia per la sua telefonata, non diamo mai consigli di investimento, analizziamo i vari strumenti e poi ciascuno deve decidere sulla base delle proprie esigenze. Però effettivamente in questo momento il debito pubblico italiano e di altri stati, insomma, potrebbe essere una prospettiva interessante. Che prospettive vedete voi, dottoressa Defend? Ma sicuramente il tesoro italiano è stato molto attivo in questo frangente, in particolare con un'offerta dedicata proprio agli investitori al dettaglio, gli investitori retail, per cui quello rimane un ambito interessante. E in generale comunque il mercato obbligazionario italiano offre dei rendimenti che altrove non ci sono, e quindi a fronte di un rischio che per il momento sembra essersi ristretto, vediamo per esempio lo spread con il Bund oggi al 166, quindi sicuramente il rischio percepito attualmente in Italia è minore rispetto al passato, e con quei rendimenti la periferia, quindi l'Italia piuttosto che la Spagna, rimangono comunque nei mercati obbligazionari a cui noi guardiamo con interesse. Tra l'altro ci sarà anche da lunedì, e Deborah lo ricordiamo, appunto questo collocamento del nuovo BTP Futura. BTP Futura. Esatto. Ne parleremo poi diffusamente, ne abbiamo già illustrato le caratteristiche nella puntata di lunedì scorso, che trovate come sempre sul nostro sito di Radio 24, radio24.it, nella sezione appunto del nostro programma. Deborah. Tra l'altro, Mauro, questo è un tema che ti ricorderai, abbiamo affrontato anche l'altro pomeriggio nel corso del nostro Investire in Formati Digitale, la nostra Digital Roundtable, la nostra tavola rotonda che i nostri amici che ci seguono hanno potuto vedere in streaming, perché eravamo all'auditorium del Sole 24 Ore con i nostri ospiti, ma chiaramente senza pubblico, tutto il pubblico era esterno. Ho chiesto ad un certo punto ad uno dei nostri relatori proprio se tutto questo grande ammontare di debito che si sta generando, sia da parte delle aziende che naturalmente devono indebitarsi per continuare a lavorare, ad investire, magari vanno sul mercato con nuove emissioni obbligazionarie. Il Sole qualche giorno fa raccontava di quanti titoli obbligazionari corporate, si dice così, ci sono in circolazione, e anche gli stati devono fare altrettanto. Tutto questo, Monica Defend ci porta chiaramente a dire che saranno sicuramente delle opportunità di investimento queste per gli operatori professionali. Il piccolo risparmiatore dovrà guardare a questo mondo con un po' di attenzione. Ecco, dal punto di vista dell'opportunità, che opportunità sono di investimento queste? Allora, noi sicuramente tutto quello che sta sotto l'ombrello delle banche centrali, le banche centrali in questo momento hanno nei loro programmi di acquisti interesse per emissioni creditizie, che peraltro sono a dei livelli storicamente molto, molto elevati, e continuano comunque a comprare titoli governativi. Quindi questo mantiene la domanda molto alta e tutto sommato più tutelata rispetto ad altri tipi di investimento. Chiaramente poi la scelta per noi, che siamo investitori professionali, andiamo a privilegiare quelle emissioni che hanno una qualità intrinseca legata alla qualità del bilancio, quindi dei bilanci di aziende che devono essere in ordine. Ma sicuramente la garanzia delle banche centrali è un aspetto importante e che in questo momento non possiamo trascurare. Chiaramente un aumento delle emissioni di debito così elevate devono servire a creare della crescita. Quindi come questi soldi verranno investiti, saranno in grado di incrementare la produttività e aumentare la crescita affinché poi questo debito sia sostenibile, è nel medio periodo fondamentale. Allora, cara Deborah, dobbiamo porre il domandone del giovedì. E allora c'è una sigla. Accettiamo le vostre risposte solo e soltanto se telefonate a 800 24 00 24. La domanda è la seguente: sulla borsa statunitense si è registrato uno storico sorpasso in termini di capitalizzazione tra due società. Quali sono le due società? È stato detto proprio all'inizio della trasmissione. Vogliamo i nomi. E il verbo sorpasso, dato il settore di cui parliamo, peraltro è anche piuttosto azzeccato, no? Sì, ma non possiamo dire altro. Diciamo che però nella prima parte della trasmissione l'abbiamo detto. È stato detto in classe, ma forse non siete stati attenti. Sicuramente lo sa Monica Defend, ma lei non può rispondere. Non le impediamo di giocare con noi al domandone del giovedì. Però potrebbe essere interessante capire se quel settore lì a cui appartengono quelle due società di cui abbiamo parlato all'inizio, in questo momento sono inserite nei portafogli che stanno costruendo i grandi gestori mondiali, no? Perché sicuramente alla luce di questa crisi e dell'effetto enorme che c'è e ancora non raccontato tutto, non visto tutto probabilmente, stanno riorganizzando diversamente le classi di investimento, i portafogli, le percentuali. Ecco, Defend, voi che cosa state facendo? State portando avanti dei cambiamenti strutturali importanti o rimaneggiate, come dire, tatticamente le vostre gestioni? In questo momento stiamo ricalibrando tatticamente, perché non ci sentiamo di prendere delle posizioni strutturali, proprio perché non vediamo un trend definito, c'è ancora molta incertezza. Però stiamo cambiando il modo in cui guardiamo ai portafogli. e anziché guardarli in maniera tradizionale, azioni, obbligazioni, materie prime, stiamo guardando come questi portafogli sono esposti a dei fattori di rischio, dove il fattore di rischio può essere la crescita, l'inflazione, la liquidità, e questo ci permette di avere delle analisi a più ampio spettro, perché guardando a fattore crescita tu puoi considerare contemporaneamente le azioni, le obbligazioni e le materie prime, e a quel punto decidere dove vuoi essere investito. Quindi questo significa che potremmo anche utilizzare questo momento per una, come dire, un complessivo ripensamento del portafoglio. È molto interessante questa cosa, cioè di riprogrammare il tutto sulla base di fattori di rischio anziché, non so, sul classico ragionamento di tipo di strumento, appunto le azioni, le obbligazioni e quant'altro. Quindi diventa, no, prego. Diventa una necessità nel momento in cui le banche centrali sono così attive ad amministrare le curve dei rendimenti. I rendimenti sono comunque molto compressi sul fronte obbligazionario, e le correlazioni hanno degli andamenti proprio strani. Cioè, se pensiamo a quello che è successo a metà marzo, quando tutto crollava, crollavano le azioni, crollava l'oro, crollavano i titoli di Stato governativi americani, cioè, ci sono delle cose che stanno alterando la chimica dei mercati. E comunque Covid, se vogliamo, ha esacerbato quelle che erano delle idee che avevamo e delle condizioni di mercato che già c'erano, perché i tassi erano già bassi e le banche centrali erano già state ultra accomodanti. Adesso questa cosa è stata decisamente aumentata dal Covid, e quindi anche noi stiamo vedendo se ci sono dei cambiamenti strutturali e come adeguarci. Intanto, a proposito di visualizzare i cambiamenti strutturali e quelli che potranno esserci, sicuramente si mantiene l'atteggiamento di molti risparmiatori come quello che ci ha manifestato poco fa la nostra ascoltatrice. C'è chi diciamo la volatilità del mercato non la sopporta, e quindi quando poi succedono episodi come quelli che si sono manifestati nelle ultime settimane vanno sulle montagne russe in termini di emotività. E allora, in prospettiva, dottoressa De Fende, le chiedo, secondo lei, per chi volesse essere prudente nella scelta dell'investimento da fare, secondo lei quali saranno i settori che sopporteranno un po' meglio la volatilità che prossimamente sicuramente tornerà sui mercati, perché ogni giorno abbiamo notizie diverse, un giorno dati economici pesanti, il giorno dopo un po' più incoraggianti, e quindi di conseguenza i mercati si muoveranno. La volatilità sarà la grande protagonista, ce lo dicono in molti, delle prossime settimane, ma per chi non la sopporta come si deve proteggere? Innanzitutto rivolgendosi sempre a un investitore specializzato, fai da te, soprattutto in questi frangenti può essere molto rischioso, se si chiede la mia personale opinione. Quello che stiamo facendo noi è proprio andare a identificare le singole storie, quindi cercare di essere di prendere rischio laddove sappiamo che questo rischio è ben calcolato. Pensiamo che ci saranno dei cambiamenti strutturali, pensiamo alla digitalizzazione, per esempio, quindi tutti i titoli legati al digitale, all'educazione digitale, pensiamo al commercio elettronico, quindi questi sono per il momento alcune delle cose a cui stiamo guardando con un orizzonte più di medio termine, ma anche investimenti in infrastrutture più verdi, più eco sostenibili. Sono altre realtà che di fatto con Covid sono emerse e potrebbero beneficiarne con investimenti futuri. Mi chiedo, Deborah, se a questo punto la parola volatilità deve farci ancora compagnia. Prima la dottoressa De Fende ci ha detto, noi prevediamo di tornare al pre-Covid al 2022. La parola volatilità quindi ci farà compagnia fino a quell'epoca? La parola volatilità ci farà compagnia sicuramente nei prossimi mesi, perché per esempio entriamo nel vivo della campagna elettorale americana, quindi questo è un altro dei fattori che potrebbe incidere con delle fiammate di volatilità sui mercati. E sicuramente, intanto che non ci sarà una decisiva presa di posizione da parte dei governi sulle politiche fiscali, in particolare in Europa, e sicuramente fintanto che non avremo un vaccino che ci permetterà di gestire in maniera ottimale Covid-19, questo rimane un rischio purtroppo che peserà sul mercato. Grazie, allora grazie a Monica Defend, Global Head of Research di Amundi, grazie per essere stata con noi nel nostro Investire Informati. Dottoressa Defend, buon lavoro. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, e allora abbiamo davvero gli ultimi 30 secondi perché abbiamo posto un domandone e abbiamo una risposta. Vediamo chi è stato o stata è stata più veloce di tutti all'800240024, Alessandra, che ci ha chiamato da Perugia. Buongiorno Alessandra. Buongiorno. La risposta, quali sono le due società che si sono sorpassate ieri alla borsa americana? Tesla sorpassa Toyota. Tesla sorpassa Toyota è la risposta esatta. E allora, bene, forniremo presto anche i premi dovuti e doverosi. Esatto. E noi torniamo domani? Certamente, anche perché, cara Deborah, lo voglio dire, parliamo del 110%. Se volete, sul sito del Sole 24 Ore, per gli abbonati, abbiamo a disposizione la guida che è stata diffusa ieri in edicola con il Sole 24 Ore. Se l'avete perduta, potete cercarla lì. Grazie a Peter Bescapè, Luca Cremonese, Marco Lombardo. Grazie anche a Deborah Rosciani. E a Mauro Meazza. Buona giornata a tutti, a domani.